Allora, ciao a tutti, cominciamo. Allora, intanto buonasera e ben trovati. L'esercizio di questa sera è un po' ardito, perché noi ci dovremmo provare a presentare quattro diversi volumi. Nella locandina è stato detto, sono stati definiti e raccolti come la quadrilogia della memoria. Ogni testo in realtà porta un po' di memoria, ma questi quattro volumi, quattro di una lunga serie che Umberto ha scritto, riportano un pezzo di memoria che li lega molto strettamente l'uno all'altro. Ora io non so voi quanti e quali avete letto, per cui facciamo conto che partiamo da zero. I testi sono stati pubblicati in anni diversi, sono stati poi anche rieditati, hanno cambiato anche editore nel corso del tempo, qualche editore di un tempo anche non c'è più. Sono testi diversi, ma in qualche modo coprono un pochino lo stesso periodo e girano attorno ad uno stesso argomento. Il primo è primo come pubblicazione è Non vendere i tuoi sogni mai, del 1987. Un pochino le date ci interessano. Il secondo è Se Rachel va alla guerra, che è anche l'ultimo, perché è quello che è uscito adesso in una riedizione proprio del 2025. Poi c'è, che è del 1991, 87, 91, 2025. Poi c'è Vicolo Calusca, che è del 2018. E per finire, Sei giorni troppo lunghi, che è del 2024 e che chiude la parabola, il racconto di questi, a mio parere, diciamo in qualche modo, chiude la storia di questi, mette un punto a questa questione che viene trattata qua. La seconda cosa che abbiamo messo nella locandina era che questi libri parlano di argomenti di cui oggi si parla malvolentieri. È utile spiegare che cosa si intendeva con questa frase. Questi libri trattano di alcune vicende che partono dalla metà degli anni 70 e che si prolungano in realtà fino quasi ad oggi. Ora l'editoria, la narrativa, la saggistica è piena di libri che parlano di quegli anni. Ci sono un continuo uscire di testi che sono degli testi, dai testi autobiografici ai testi biografici, appunto ai testi di critica saggistica e di analisi politica, che riguardano tutto il periodo delle lotte che vanno dagli anni 70, che coprono gli anni 70, 80 e in avanti. Ce ne sono tantissimi. In realtà questi quattro libri, che partono dalla storia di Umberto, raccontano questo periodo con un occhio diverso. Umberto, intorno al 1974, con gli anni mi sbaglierò sicuramente perché ho una sorta di dislessia sui numeri, però intorno a quegli anni là, fonda con un gruppo di amici un gruppo di azione di territorio alla Barona, che si chiama Comitato Autonomo Antifascista Barona. Aveva 14 anni. Questi ragazzi, e avevano tutti più o meno la stessa età, erano tutti più o meno coetanei, questi ragazzi di un quartiere proletario di Milano, di recente edificazione, dove ci stavano gli immigrati del sud e le persone che erano state allontanate dal centro della città quando era stato il fascismo, aveva svuotato, sventrato i vecchi quartieri di Milano, erano quindi quartieri molto proletari, questi ragazzi in questi quartieri proletari o sottoproletari, danno vita a questo comitato in cui la parola antifascista era forse, aveva delle connotazioni magari un pochino diverse da quelle che potrebbe avere oggi, ma chiare. La parola autonomo non ha niente a che fare con l'autonomo che noi abbiamo conosciuto dopo. Questo comitato era autonomo anche dagli autonomi e sarebbe rimasto autonomo anche dagli autonomi, quelli che poi hanno costituito l'autonomia. Ecco. Quindi è un gruppo giovane, forte, resistente, creativo, alla ricerca di qualche cosa che non fosse quel futuro grigio che si vedevano prefigurato e che iniziano ad intervenire nel loro quartiere. Intervenire cosa vuol dire? Intervenire vuol dire occuparsi del lavoro nero, intervenire vuol dire occuparsi della vita cara, intervenire vuol dire entrare in rapporto con le occupazioni delle case, che allora avevano anche una connotazione molto diversa da quella che noi conosciamo oggi. Intervenire vuole anche dire necessariamente mettersi in relazione o essere messi in relazione con dei pezzi di strutture più organizzate, dove ci sono generalmente composte da persone più avanti con gli anni, più grandi, ecco, non voglio dire degli anziani, ma delle persone adulte, con cui era in qualche modo necessario confrontarsi e scambiare alcuni percorsi della politica, perché questa era la politica. Allora, questo punto di vista è molto particolare ed è molto poco ricostruito e raccontato. E, questa cosa è un gran peccato, perché sarebbe molto utile oggi, dove abbiamo all'interno dei quartieri proletari dei gruppi di ragazzi che similmente, anche se con tutte le differenze del caso che possono essere fatte da allora ad oggi, si muovono nel tentativo di dare corpo a qualche cosa che sia possa in qualche modo mutare il destino grigio che hanno davanti. La loro vicenda, poi, la diciamo subito, la faccenda per forza, non si può non dire, incappa in un episodio molto triste e marcio di questo paese. Cioè, nel 1979, nei primi febbraio, gennaio, non so, saprete che viene ammazzato un gioielliere in una sparatoria, viene ammazzato, giustiziato, si diceva allora, un gioielliere colpevole di avere a sua volta ucciso un rapinatore durante una rapina in un ristorante. Una storia già torbida, perché non si capisce come questo gioielliere spara a questo rapinatore, poi resta fuori, in giro c'è la pistola, cioè è tutto sbilenco. Va bene, ma questo gruppo di ragazzi, alcuni di questi ragazzi, tra cui Umberto, vengono sospettati per delle ragioni tecniche non verificate a sufficienza, non investigate a sufficienza, vengono sospettati di essere i responsabili o vengono scelti come capri espiatori per poter in qualche modo dimostrare una risposta efficace dello Stato a questo intervento. Vengono quindi prelevati nelle loro case e messi sostanzialmente sotto sequestro per una settimana, 6 giorni, e in questi 6 giorni li vengono sottoposti alle torture di polizia, di cui saremmo poi diventati più consapevoli in un momento successivo. Noi abbiamo come caso precedente quello di Enzo Triaca, torturato dal gruppo del professor De Tormentis nel 78, è solo un anno prima, va bene, era la questione lì, c'era di mezzo rapimento, sequestro Moro, questa squadretta specializzata nel fare nel torturare i prigionieri per farli parlare e raccontare che cosa era successo, oppure raccontare quello che faceva comodo che loro avessero da raccontare. Questo fatto in cui incappano, ecco, la storia perché marcia, continua marcia, ecco, possiamo anche dedicarci un minuto solo, perché loro verranno poi scagionati, diciamo così. Verrà imbastito tutta un'istruttoria altrettanto come dire irrispettosa di quelle che sono i principi, le regole del diritto, che porterà all'identificazione dei quelli che si dicono i responsabili, anche proprio davvero, in questo gruppo dei PAC, proletari armati per il comunismo, alla cui capo c'era allora Cesare Battisti, che pur essendo riconosciuto non responsabile direttamente del fatto, però è stato riconosciuto come il responsabile morale, perché si diceva che era il capo più importante, la voce più autorevole di questa organizzazione, viene condannato agli ergastoli. Lui scappa, la vicenda noi la conosciamo credo tutti, perché è stata moltissimo sulle pagine dei giornali, fino a che dalla Francia scappa in Brasile, dove ha la tutela del ministro della difesa e del governo Lula, allora c'era, poi dal Brasile, siccome si sente meno sicuro perché il governo è cambiato, c'era Bolsonaro, va in Bolivia e sostanzialmente in Bolivia viene sequestrato dalla polizia italiana, perché si tratta tecnicamente di un sequestro, nel senso che lui non aveva nessuna, non c'era nessuna estradizione su di lui, lui è stato preso e portato in Italia, mentre a norma del diritto internazionale avrebbe dovuto essere riportato in Brasile e da là riportato in Italia e consegnato, anche questo ve lo ricorderete, come trofeo a Salvini, ministro degli interni allora, filmato in aereo che scendeva, il prigioniero è arrivato finalmente, questa cosa, uno scambio di potenti, così. Ora, non voglio entrare nella questione, non voglio entrare nel personaggio, è stata una questione molto discussa, il personaggio pure, però, diciamo, è una storia che nasce marcia e marcia fino ad ora è arrivata. Ecco, incappano questi ragazzi. Lui aveva 18 anni da poco, quindi incappano in questa vicenda qua. La qualcosa, naturalmente, immagino io, segna enormemente loro e anche li espone a un altro tipo di interlocuzione più complessa di quella che era da prima, perché sono evidentemente costretti ad uscire dal loro territorio, sia fisico-geografico sia politico, ecco, in qualche modo, cioè l'interlocuzione cambia. In questa vicenda, perché ora questo magari lo spieghi meglio tu, comunque Umberto incappa nella figura di Primo Moroni, che aveva allora la libreria in Santo Storgio, la libreria Calusca in Santo Storgio, e forse anche prima, perché non è vero, perché tu andavi là a portare il vostro giornale, perché i ragazzi facevano anche un giornale, insomma. I riferimenti teorici del gruppo del CAB però non erano i mostri sacri della storia della politica rivoluzionaria, ma erano dei personaggi dei fumetti, ecco, per spiegare, diciamo, nel senso, no? Erano dei ragazzi che vedevano più come l'impresa, sentendo forte la tensione del presente quotidiano, con difficoltà si cimentavano con Lenin. No, avevano anche fatto, ma non era quello il punto della questione. Però facevano un giornale, un giornalino, una pubblicazione, un bollettino, non so come preferisci che si chiami, e lo portavano alla Calusca perché Primo lo diffondesse, giusto? Allora, nell'incappo, l'incastro, il sequestro, i sei giorni, il casino che ne viene fuori, questa faccenda in qualche modo prende corpo, e io immagino questo anche la relazione di Umberto e forse dei suoi, degli altri del gruppo con Primo si rafforza, no? In qualche modo ecco, e prende delle, come dire, delle gambe più solide, delle gambe più solide. Allora, i quattro volumi girano attorno a questa storia qua, raccontano questa storia qua, raccontano questi anni. In realtà io ho detto che arrivano anche quasi all'oggi, perché Vicolo Calusca, che è una sorta, io la direi una sorta di dedica a Primo, voi sapete tutti che qua all'interno del centro sociale Conchetta, che è questo, Primo Moroni nel 92 aprì, spostò la sua libreria che aveva itinerato un po' e che aveva difficoltà a lavorare un po' perché i tempi erano cambiati, un po' ridendo e un po' no, si diceva, perché gran parte della clientela era stata arrestata e che quindi, diciamo, c'era anche il mercato e anche la produzione era diminuita, cioè era tutto cambiato, no, in qualche modo. Però è stata un'ottima idea quella di Primo, di, e anche molto lungimirante, intelligente, di trasferirsi all'interno di un centro sociale. Il rapporto è stato stretto sempre. Vabbè, ora non è che vogliamo parlare di Primo, casomai parliamo dopo, però nel Vicolo Calusca, che parte da una, prende spunto da un'intervista che Umberto ha fatto a Primo, lunga, queste cassette che sono rappresentate sulla copertina, in realtà il gioco che fa Umberto è quello di dire com'era quella città allora e come ora, no? E quindi fa un gioco di confronto tra un po' il passare del tempo, e quindi possiamo dire arriva ad oggi. C'è un secondo motivo per cui in realtà queste storie arrivano ad oggi, ma casomai ne parliamo dopo. L'ultimo, Sei giorni troppo lunghi. Oh, anche questo si può dire, dico tutto subito quello che voglio dire, poi magari mi metto dell'altro dopo. E Sei giorni troppo lunghi chiude, è l'ultimo, non è l'ultimo a essere pubblicato, perché l'ultimo pubblicato è Seracchel, che è una riedizione, però è l'ultimo ad essere, ha preso la forma di corpo, e da chiusura, perché i sei giorni sono i giorni, questi giorni in cui loro sono stati in questura. E quindi, ed è un libro che quando è uscito, non so, tu mi dici, il 2024, ci ha messo 30 anni anche di più a trovare la forza di essere pubblicato. Allora, perché dico anche questo? Perché in realtà questo libro era già stato scritto, e anche Vicolo Calusca era già stato scritto, entrambi erano diversi da come sono ora, li aveva scritti ma li aveva tenuti. Perché è così? Perché non si sa, uno non è convinto, non va bene, oppure tutto, si capisce che questo qua, Sei giorni troppo lunghi, è più complicato da raccontare, anche immagino dal punto di vista emotivo, per le cose che racconta, e quindi sono stati, per quanto ho capito io, in buonissima parte riscritti. Quindi è una storia complicata, ecco, un esercizio difficile quello che adesso ci tocca, che stiamo facendo. E, per fortuna che possiamo leggere dei pezzi e abbiamo qualche... hanno scelto loro dei pezzi dai quattro, e io secondo me posso zittirmi e leggete un pezzo e poi riprendiamo il ragionamento. Puoi andare nell'ordine. Puoi anche leggere senza dirlo. No, dillo. Dillo. Cominciamo con il primo. Cominciamo dall'inizio. Sì, dai. Facciamo le cose. Non vendere i tuoi sogni è un sogno, diciamolo. Allora, no? Dobbiamo dire. Con Umberto ci conosciamo. Spostati, basta che non sei troppo vicino alle casse, stai attento. un po' lontanino. I libri sono stati completamente... Allora, sei giorni... Alzai la coperta e mi spinsi in fondo al letto. Mi arrotolai nelle lenzuola profumate e abbassai la coperta sul capo. Nel calore e nel silenzio dell'oscurità mi addormentai. Quando entrò nel parlatorio sudicio e triste, il cuore mi batté forte. Tanto forte che mi venne il timore che qualcuno potesse sentirlo. Non volevo che nessuno lo sentisse, eccetto lei. Aveva i capelli folti e neri come la notte e il viso morbido come un cuscino. Forse la trovai già seduta quando la porticina verde si aprì, gettando nella stanza un rumore secco di chiavi. Mi sedetti di fronte a Laura, ci guardammo dritti negli occhi, mentre le mani si incontravano accarezzandosi. «Amore!» esclamai. Lei mi chiuse le labbra con le sue e io per un momento dimenticai quel posto infame. Quando le labbra si staccarono, le nostre bocche si riempirono di parole e l'incontro divenne frenetico e senza pause. Ci baciammo ancora, avvinghiati al nostro amore, rimanemmo seduti su quelle panche di marmo e i nostri gomiti, appoggiati sul grosso e lungo tavolo di cemento, si scorticarono, ma continuammo a baciarci, a sposarci, a parlare. L'urlo selvaggio della campana mi trafisse. Il cuore continuava a battere contro il magro torace. Mi alzai, si alzò, ci guardammo, mentre già gli uomini vestiti di grigio verde si dirigevano verso di me. Era bella, eh? Ci guardammo ancora un po', poi mi girai verso la porticina, guardai un cappotto grigio verdognolo e mi rigirai. Era là, mi osservava ancora, sorrisi e la salutai. Una lacrima sgusciò di fianco al naso, poi sulle labbra carnose e proseguì sul mento tenero e svanì. La porticina si chiuse e le chiavi di ferro penetrarono la toppa. Fiero e deciso camminai tra le due guardie per il lungo corridoio. Nel silenzio i passi rimbombavano come una campana. Le guardie aprirono una porta di sbarre con appeso un cartello. Cella 205. Sbatté forte alle mie spalle. Rimasi immobile a osservare gli altri ragazzi chiusi nella stanza. Franco fumava la sua solita sigaretta. Drelli e Marasco giocavano a carte. Ci incontrammo con gli sguardi e sui loro visi si accesero degli strani sogghigni maliziosi. La mia mano sinistra abbassò la maniglia grigia di una porticina e nel silenzio entrai nel gabinetto. Andai dritto verso il buco di quel cesso alla turca, mi abbassai i calzoni e poi le mutande. Mi piegai e la mia mente la vide ancora. Quei suoi occhi scuri e dolci, quel seno profumato. Le mie mani si distesero sicure verso il basso e mi unii a Laura con il cuore. Continuo. Continua. Poi dico una cosa. Avevamo deciso di fare due. Verkauf dein Traum nicht nie, sussurrò Anna. E la sua voce si intrufolò dolcemente nelle mie orecchie e smise di fissare le onde leggere e buie del mare e la guardai fisso nei suoi occhi scuri. «No vendas tu sueños, nunca!» disse ancora Ana e sorrise di fronte allo stupore disegnato sul mio viso. Si alzò e venne più vicino. «Non vendere i tuoi sogni mai!» sussurrò. Ma che calore aveva in sé quella frase! Tenera come la voce di Sofia, morbida come le labbra di Laura, calda come la mano di Fabio che stringe la mia con forza, con violenza, con amore. Mi hanno arrestato ancora, Michele, per colpa di un pentito. Lo so, Fabio. E sai il giudice che cosa ha detto? Cosa ha detto il giudice? Che non mi concederà la libertà provvisoria. Sai perché? Perché, Fabio? Perché dice che mi ostino ad essere innocente. Era forse così che volevi terminare il tuo racconto? Perché nessuno saprà mai amarti come ti ho amata io. Forse avrei dovuto cambiare quest'ultima frase, ma avevo già spento la luce. Il frigorifero taceva e forse si era addormentato. Il sonno mi stava catturando, eppure sentivo che dovevo cambiarla. Avrei dovuto riaccendere la luce, alzarmi dal letto, arrivare fino alla penna, cambiare la frase scritta sul foglio. E se il frigorifero riattaccava la musica? Non potevo rischiare. Era l'ultima occasione che avevo per addormentarmi. Fra un po' sarebbe arrivato il mattino e anche la calda luce del sole. Eppure dovevo rischiare. Quella frase doveva a tutti i costi essere cambiata. Annaspai con le mani vicino all'interruttore, con gli occhi ancora chiusi. Accesi la luce e per un attimo attesi in silenzio il tac del frigorifero, che con mia grande sorpresa rimase muto. Mi alzai piano, presi la penna bianca, tracciai una riga nera su quella frase. Osservai il foglio per un po', mi decisi e scrissi: perché nessuno saprà mai impegnarti come ti ho impegnata io. Soddisfatto spensi la luce, nel silenzio, tra le lenzuola a fiorellini, finalmente mi addormentai. Oppure volevi terminarla così? Mi hanno arrestato ancora, Michele, per colpa di un pentito. Lo so, Fabio. E sai il giudice cosa ha detto? Cosa ha detto il giudice? Che non mi concederà la libertà provvisoria. Sai perché non me la concederà? Perché, Fabio? Perché mi ostino ad essere innocente, disse, e non parlò più. Mi fissò dritto negli occhi e mi strinse forte la mano. Poi la lasciò e io mi girai lentamente verso l'uscita del parlatorio del carcere. Mi fermai e mi volsi ancora verso i suoi occhi, che ancora mi guardavano. Fabio, dissi piano, non vendere i tuoi sogni mai. Sorrise e il suo sguardo mi seguì fino all'uscita. In qualsiasi modo tu avessi voluto terminarlo, ora non puoi più, perché dormi e forse solo nel sonno troverai la trama che hai tanto cercato. Quindi dormi e sogna. Qualsiasi cosa accada, puoi vincerla col sogno. Bravo, allora io intervengo subito, poi lasciamo la parola a Umberto, che forse è la più lunga di tutti, ma volevo dire questo. Allora, non vendere i tuoi sogni mai tocca, no? Sfiora la questione dei sei giorni, la evoca, dappertutto è evocata e solo nell'ultimo viene un po' raccontata. Però ci sono altre due costrizioni istituzionali là, che sono il militare e il reparto psichiatrico dell'ospedale militare, in cui il disgraziato Umberto incappa praticamente a ridosso di questa della vicenda, giusto? Ne avevi 19, con continuità, ecco, viene arruolato, viene chiamato per la leva e nel tentativo in un momento di rabbia la cosa poi degenera un po'. Quindi diciamo il grado di complicità anche appunto emotiva di questo pezzo di racconto è più spesso di quello che io ho detto. Dico, e poi veramente ti passo la parola, una soli per adesso, non so, poi vediamo com'è, però sullo stile, avete visto com'è, chi l'ha letto lo sa, non c'è quasi punteggiatura e non ci sono capitoli, è tutto un flusso. Questo è scritto, è spiegato in Serakel, in cui anticipo questo pezzetto che non credo che sia, cioè Serakel l'inizio, il pretesto è lui che porta un libro dall'editore, no? E l'editore lo critica per come questo libro è scritto. E allora lui dice: che poteva importarmi della trama, dei personaggi precostituiti, del fine, dell'intreccio? Quelle cose le lasciavo volentieri agli architetti, agli artigiani, agli edili, che li costruissero loro i romanzi. Non era il mio genere. Io avevo voglia di parlare con il lettore, di raccontare il fatto mio, quello che provavo, che vivevo, e non un mucchio di stronzate, di invenzioni, di batticuori decisi a tavolino. Leggere un libro per me è come fare l'amore, in due oppure niente. Bisogna sudare entrambi, il lettore e lo scrittore. C'è da soffrire, da divertirsi insieme, altrimenti pare una fellazio, una prestazione. E questa è una sintetica autodescrizione di uno stile narrativo, di scrittura, diciamo così, che caratterizza tutti questi i volumi, quattro, e anche gli altri in realtà, che ha scritto. Basta, adesso ti inventati tu qualcosa. Va bene, tocca a me. Allora, devo dire però che il quarto della quadrilogia, è fatto con i capitoli, con la punteggiatura, con le virgole, punte e virgola, i due punti. Perché? Un po' perché sono invecchiato, anche se devo dire che sei giorni troppo lunghi in realtà è il primo libro, quindi è un libro giovanile. Però non è questo, è che dipende sempre dal tema trattato. Allora, sei giorni troppo lunghi andava scritto così, perché la necessità era di raccontare finemente e attentamente tutto quello che era accaduto. E proprio partendo da sei giorni troppo lunghi, sei giorni troppo lunghi ha una particolarità, perché fu il primo libro che io scrissi, proprio a 18 anni, dopo gli avvenimenti che mi coinvolsero, insomma. Però appunto lo scrissi di getto come testimonianza, ma alla fine insomma era un libro che non mi piaceva. Quindi lo lasciai lì. È un po' una cosa che ho fatto anche con altri libri, come diceva prima il mio prefattore preferito, che ho qui vicino, che ha prefatto tutto. Anche Vicolo Calusca, appunto, era stato scritto, ma poi in qualche maniera abbandonato. Soprattutto perché non era maturo Vicolo Calusca. Poi fu abbandonato e completamente riscritto, perché il successivo Vicolo Calusca, cioè quello che ha visto le stampe, che è uscito, non ha praticamente quasi niente del Vicolo Calusca iniziale, che un tempo si chiamava Una vita di carta. Una vita di carta era la storia di Primo Moroni, sostanzialmente ci eravamo incontrati a casa mia e lui mi aveva raccontato della sua vita, benché lo conoscessi da quando avevo 13 anni, 14 anni, perché l'avevo conosciuto proprio andando in via, proprio in Vicolo Calusca, e dove adesso c'è un ristorante orientale. Però in quel posto lì c'è stato di tutto, perché Moroni raccontava che addirittura lì era una lavanderia, quindi c'è stata una trasformazione, vabbè, a Milano in generale, ma nel ticinese è incredibile. E in Vicolo Calusca si raccontano tutte queste trasformazioni. Appunto, Primo venne a casa mia e mi raccontò tutte le sue faccende, anche faccende molto personali. Provai a scrivere questa storia, ma poi alla fine decidemmo che non era venuto bene questo libro. Che ripresi poi in mano questa idea dopo tantissimi anni, perché mi era rimasta questa sensazione di voler far qualcosa per Primo Moroni, come un desiderio di restituzione, perché Primo Moroni era stato sempre una persona di grande valore, soprattutto una persona che sapeva ascoltare, e quindi tutte le persone che avevano bisogno di raccontare alla fine andavano da lui, fino a quando non ne poteva più e c'è stato un periodo che non voleva ascoltare più nessuno. Ma tornando a sei giorni appunto è come se sei giorni fosse apparso in tutti i libri, no? In tutta questa quadrilogia, ci sono dei cenni, non vendere i tuoi sogni mai, c'è qualcosa in Serà che va alla guerra e c'è ancora qualcosa in Vicolo Calusca, fino a che evidentemente è arrivata la maturazione improvvisa e in pochissimo tempo ho scritto praticamente nuovamente, da nuovo, e anche abbastanza velocemente, il lavoro di Sei giorni troppo lunghi. Ecco, noi facciamo la quadrilogia della memoria. Facciamo la quadrilogia della memoria, e però tu mi devi fare domande, perché io che dico? Se no parlo sempre, dico sempre le stesse cose. Fammi delle domande specifiche. Tu sei il prefattore. Ah, io sono... Sì, sono prefattore. No, passerei alla lettura, a un'altra lettura, aspetta, poi ti faccio le domande. Vai con Calusca. Sì, certo. Calusca. Sì, sì, sì. La città è proprio cambiata, mi sono detto. Qua c'era Moroni e lì c'era Bellini, mi sono detto. Un mucchio di ricordi nella mia testa non trovano più alcun riscontro nella realtà, mi sono detto. Il territorio è un altro territorio, dove prima c'era una cosa ora ve n'è un'altra, mi sono detto ancora. Ma io me lo ricordo Moroni e mi ricordo Bellini mentre diceva agli altri: io sto tranquillo, vedete, come lui, guardate, e indicava me con la mano aperta, ma io ero tutt'altro che disteso, mentre Bellini evidentemente mi trovava calmo e diceva in mezzo a quel cemento agli altri che erano rinchiusi lì: io sto qui con tutta serenità, mi siedo, passerà il tempo e poi usciremo a testa alta. Con i suoi baffoni biondi, la faccia da condottiero gallico un po' folle, me lo ricordo, con le mutande lunghe di lana, pareva un cowboy o il generale Custer. Mi ricordo Moroni nella sua libreria in cui si dava appuntamento tutto il nostro cosiddetto mondo. Mi ricordo di tante cose, visi, avvenimenti, ma sono solo ricordi perché la città è un'altra, è la stessa, ma è anche un'altra. Non è più quella, io non sono più quello, anche se sono sempre io che cammino qui, in queste strade che non sono più queste strade. Le strade sono anche gli abitanti che le percorrono e chissà quante persone hanno calpestato questi marciapiedi. E Moroni se ne stava seduto nella sua libreria con la faccia da orientale e lo chiamavano tutti il cinese. A quei tempi di cinesi a Milano non ce n'erano molti. E anche ristoranti, molto pochi, non come adesso che ce ne sono a decine, bar, locali, negozi. E Moroni con la faccia da cinese, gli occhi a mandorlo, lo sguardo furbo, se ne stava seduto sulla sua sedia e ascoltava tutti con pazienza. Poi, improvvisamente, dopo anni, ha messo davanti a sé un cartello sul bancone della libreria. Ha scritto che non avrebbe potuto dare ascolto più a nessuno. Per anni vi ho ascoltato. Adesso basta. Voglio stare un po' in silenzio. Allora tutti passavano piano davanti alla sua poltrona girevole da barbiere, acquistata nel negozio dell'usato, e silenziosamente l'oltrepassavano, dirigendosi sulle decine, centinaia, migliaia di libri, di opuscoli, fanzine, bollettini, giornali, di titoli, su tutte le storie dei movimenti rivoluzionari di ogni parte del mondo. Primo Maggio, Catuflash, Renudo, Paria, Puz, Il Buco, Collegamenti, Rosso, Controinformazione, Quaderni Piacentini, Rassegna Comunista, Attraverso, e Vogliamo Tutti, Ad Avenir, Revolution, ancora Apache, Sesto Senso, La Pera Immatura, Wow, Viola, Crash. Per anni lo avevano assillato con il suo consenso e con la sua approvazione e benedizioni, quindi non ce l'ha fatta più. E ha chiesto che si facesse silenzio, ma nella sua testa silenzio non ce n'era, eh. C'era molto rumore. Allora l'ho invitato a casa mia e sono stato io ad ascoltarlo, a sentire tutte le sue storie e a registrarle come si faceva un tempo, con i nastri delle audiocassette e il registratore, tac, tac, tac. Aveva necessità di parlare della sua di vita e di raccontare i racconti che aveva metabolizzato e tutta la sua storia alla fine era diventata un vissuto collettivo di parecchie generazioni, una narrazione preziosa che andava riempiendo nastri su nastri e Moroni parlava, beveva, fumava e io ascoltavo, a volte domandavo, più che altro ascoltavo il suo soliloquio, il suo parlare infinito. Noi spariamo col pugno, diceva Scalzone col suo accento romano, in Porta di Cinese, in Porta Genova. Sul ponticello si era messo lì ad arringare il corteo per dirci che eravamo in disaccordo con quelli che sparavano a vanvera. Noi sparavamo col pugno, cioè con la lotta di classe, di piazza, me lo ricordo. Ero giovane, lui mi pareva già un grande adulto, ma mi era simpatico, magro, secco. Me lo rivedo sul ponticello, intanto chissà perché mi veniva in mente mio zio. Mio zio che criticava che leggessi Dante, mio zio che criticava che leggessi Rosso. Per Dante mi sembrava che perdessi tempo, per Rosso invece che mi cercassi dei guai. Su Dante non ebbe ragione, su Rosso in parte sì. Adesso sul ponticello di Scalzone ci passa di sera la cosiddetta Milano da bere, un mucchio di persone a tracanare la birra, gli aperitivi, la pizza, le chiacchiere fino a notte tarda. Fino a notte tarda da ragazzo facevo riunioni per cambiare il mondo, la società. così come era calmo e in ascolto, premuroso e attento, così all'improvviso si scatenava la sua aggressività. Moroni diventava a un tratto furioso ed era capace di fracassare ogni cosa e colpire con violenza chi per sventura gli stava vicino e lo aveva provocato. Fin da piccolo era stato colpito e picchiato dalla madre, che gli aveva una volta anche piantato un coltello in un braccio. Il piccolo Moroni aveva finito con l'assorbire quei gesti e quelle azioni che di scatto, per dire così, gli esplodevano tra le mani. Sotto i bombardamenti dell'ultima guerra in Toscana, la sua famiglia era lì, mentre scappavano con un camion, l'automezzo fu spostato da una bomba, mi disse lui mentre rammentava il racconto di suo padre in difesa di sua moglie, la madre di Moroni, ricordo ora. La madre aveva preso un tremendo colpo alla testa e non era più tornata quella di prima. Aveva sempre una fitta nel cranio, era irritabile, irascibile, aggressiva. Mi sono fermato sulla strada. Mi sono messo a guardare, osservare i negozi. Uno di questi una volta era la libreria di Moroni. Ma guarda, sembra quasi che lui mi guardi dalla vetrina. C'è il riflesso del suo viso e le labbra si muovono veloci. Ah, fanno una pausa per bere la grappa, per fumare. Ah, racconta piano, quasi sognante, con dolcezza. Racconta della sua prima moglie, di quando in libreria le si erano rotte le acque, l'aveva accompagnata all'ospedale, ma all'ospedale c'erano i picchetti e le bandiere rosse e non intendevano far entrare nessuno. Mia moglie deve partorire, dice Moroni con una contrazione sotto l'occhio a una specie di colosso con lo sguardo di ghiaccio che risponde: non può entrare nessuno. Io insisto, dice Moroni a me, ricordo ora sulla vetrina. E sua moglie dolcemente dice che solidarizza con loro, ma deve partorire. Allora fanno entrare solo lei e io, dice Moroni a me, mi sono messo a gironzolare, a pensare a lei che entrava nell'ospedale con la sua salopette, che avrei voluto accompagnarla. Il tempo passava, ormai era mezzanotte, io giravo col colbacco, l'eschimo, il fazzoletto rosso al collo, come ci si vestiva a quei tempi, dice Moroni. E all'improvviso ho sentito un rumore di frenata. Era una mini verde col tetto bianco. Sento una voce che grida: ecco uno sporco cinese! E ho fatto appena in tempo a vedere tre giovanissimi e una spranga di ferro avvolta in un tubo di gomma che si abbatteva rapida sul mio braccio, causandomi tre fratture multiple, come mi diagnosticarono all'ospedale la mattina dopo, dice Moroni. Avevo fatto per diversi anni la boxe francese e mi sono buttato su un muro evitando il peggio. Allora non ci ho visto più, Moroni. Si è scatenata la sua furia e ha iniziato a tirare calci, pugni, sberla, rinfuse, gridando: che cazzo volete da me? Io vi ammazzo! Erano a terra. Uno di loro mi dice testualmente: posso caricarli sulla macchina? Mi racconta. Ricordo ora e vedo la scena sulla vetrina. Moroni ride e dice: il giorno dopo mi sono presentato da lei all'ospedale. Non c'era più lo sciopero e quello con gli occhi di ghiaccio si era avvicinato alla moglie di Moroni e le aveva detto che era dispiaciuto per il giorno prima. Se era andato tutto bene, lei lo aveva ringraziato sorridendo. Moroni entra, sua moglie lo guarda preoccupata e fa per chiedergli: ma cos'è successo? Ma lui con la mano dice: no, non è nulla, fascistelli mi hanno scambiato per uno dello sciopero. Poi sorride perché il suo braccio ingessato è teso come in un saluto romano. Per colpo di fortuna noi abbiamo, no, adesso non, guarda, a pensarci poteva procurare la foto di Primo con quel gesso là, pochi giorni dopo nel foyer, credo che fosse al Piccolo, dove presentavano l'enciclopedia Io e gli altri, che lui poi avrebbe venduto, e c'è proprio la, si vede benissimo il braccio. Allora, mi permettetemi una cosa che potrebbe, non so, sembrare, però secondo me vale, e lì non è che ti faccio una domanda, ti metto uno spunto, che cioè siamo partiti dal sequestro, la tortura, perfetto, il ricordo di Primo, cioè siamo un po' nella memoria, a differenza della città, la politica, ci torneremo, perché è lì che gira attorno, però tutti i primi tre, ecco, diciamo così, c'è molto forte la questione della, come si potrebbe dire, dell'amore, del sesso, del rapporto uomo-donna, fisico e attaglia trasversalmente tutte queste pagine, dalle prime esperienze proprio giovanili, alla, è una specie di controcanto che viene fatto. Allora, una cosa che mi chiedevo adesso rileggendoli per questa serata qua, era se, diciamo, come tante cose che qua sono raccontate, in qualche modo sono, appartengono a un mondo che non c'è più, ahimè, ci può piacere o non piacere, ma, e questo in Vicolo Calusca si sente forte, no? Quando tu fai il gioco della differenza, se anche questo, che è una testimonianza che si può considerare marginale, però che in realtà è marginale, non è, perché fa parte della formazione di tutti, è una cosa che uno può pensare che è mutata, appartiene al passato o meno, cioè c'è moltissimo questa questione. Adesso mi sono in imbarazzo. Hai capito quello che ho detto? Sì. Non te l'hanno detto mai? Allora, mi hanno detto che ci sono tante donne in giro nei libri, però ci sono anche tanti personaggi, no, è pieno di personaggi. Però allora dovremmo tirare in causa anche 13 anni. Ecco, se vuoi fallo, io non l'ho letto. Come non l'hai letto? No, non l'ho letto, ce l'ho ma non l'ho letto. Allora, 13 anni è l'ultimo, in assoluto. Però qui stiamo tornando indietro, no? 13 anni è l'ultimo in assoluto, però narra di una storia che viene ancora prima di tutti questi. Però 13 anni è esaustivo rispetto a quello che tu mi chiedi, in particolare l'inizio della, in qualche maniera, della perdita dell'innocenza, perché è la preadolescenza, no? 13 anni è una storia d'amore negli anni 70. E forse bisognava inserire anche quello qui nella memoria, perché in qualche maniera racconta come poteva essere un amore negli anni 70, lì siamo nel 73, 72, 73, quindi siamo proprio poco prima del che costituissimo poi il collettivo della Barona, che poi avevo 13-14 anni. E qui c'è proprio questo incontro adolescenziale, quasi preadolescenziale, in cui c'è il passaggio tra quella che è la fanciullezza e quindi tutto il periodo in qualche maniera ancora onirico e la crudezza dell'adolescenza. In qualche maniera l'adolescenza però è anche il passaggio forte in cui non si fanno più gli sconti agli adulti, in cui si mettono in croce i genitori, in cui viene fuori la persona, diciamo, inizia la persona a, come dire, inizia a formarsi la persona, e quindi c'è anche la crudezza del vedere le cose così come sono, mentre fino alla fanciullezza e alla preadolescenza si vedono tutte queste cose, diciamo, con una visione anche più armonica, più bella. Io faccio sempre l'esempio, perché è nato 13 anni, faccio sempre l'esempio di mio figlio, perché è un figlio adolescente, e a un certo punto, qualche anno fa, che aveva probabilmente 13 anni, anche lui, e io mi sono cascati gli occhi sui suoi piedi e ho detto, improvvisamente ho visto questi piedi enormi. Ho detto, ma come? Fino a ieri ce li aveva piccoli, adesso improvvisamente da un giorno all'altro sono diventati enormi. Che poi è proprio questo che accade, no? Che anche fisiologicamente c'è questa crescita improvvisa. E allora, guardando i piedi di mio figlio, mi è venuto in mente di scrivere 13 anni. Mi è nato questo libro, 13 anni, in cui ho raccontato questo incontro tra una ragazza e un ragazzo che si svolge tutto davanti all'uscio di casa di lei una domenica mattina e non succede niente. Praticamente i due personaggi sono sempre fermi uno davanti all'altro e parlano, ma non succede assolutamente niente. Però succede tutto, perché lì c'è il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza, ma in un contesto politico, perché c'è il passaggio di quel ragazzo lì, che è un ragazzo di quartiere, che pian piano prende coscienza e quando scende, per così dire, dalle scale, salutando questa ragazza che poi andrà a abitare in un'altra città e quindi che non vedrà mai più, con grande sofferenza, c'è questo distacco, lui scende dalle scale e già incomincia a mettersi il basco con la stella, gli anfibi e l'eschimo. Quindi c'è anche una caratterizzazione del passaggio, no? Che fino a prima invece era lì col cappotto quando la va a trovare, con le scarpe regalate da un parente, perché una volta si faceva così, mettiti sto cappotto, mettiti ste scarpe, e che non amava, che non voleva avere, ma che ha dovuto metterle perché insomma si usava così, non c'erano soldi, mettiti questo e arrivederci. E poi c'è invece questa presa di coscienza di no, io voglio l'eschimo, io voglio gli anfibi, io voglio il basco con la stella, perché quel modo di vestirsi era che caratterizzava anche una presa di posizione, una presa di coscienza. Ed è il passaggio, no? Preadolescenza, adolescenza, nel contesto degli anni 70, è il passaggio da fanciullezza a militanza. Ti ho risposto così? No, per metà. No, è bello che per presentare quattro libri, poi alla fine ne abbiamo cinque, mi piace, mi sembra perfetto. E no, comunque, va bene, ci ripenserò meglio e casomai ne terrò. Cioè, non è tanto, secondo me, quello che dicevo io, la questione del passaggio, ma del modo in cui in un momento uno vede questa cosa. E questo io credo andrebbe approfondito, che rapporto c'è con l'oggi, col modo del tuo figlio, al di là, come dire, dei piedi. Cioè il tuo passaggio è diverso dal suo, non solo per la politica, ecco, basta. Questo dicevo. Comunque, torniamo se vuoi, all'Alessandro, sì. Serakel, sì. Serakel che fa il pezzo prima, sì, no? Cioè sarebbe la parte, ecco, dopo 13 anni e prima di 6 giorni, per dargli un'idea, sì, grosso modo. È il periodo della CAB. Sì, arrivi a... Sì. Sarà che ne avevamo tratto uno spettacolo che portavamo in giro 35 anni fa con un furgoncino e facevamo delle repliche, si può dire, e ogni volta che facevamo una replica, siccome c'era poca gente anche allora ci inventavamo lo stratagemma che diceva, allora davamo delle date che avremmo fatto, che non era vero, allora l'8 giugno saremo a Nizza, il 16 saremo a Reggio, davvero, ma anche noi ci troveremo, vedrete, però non era vero assolutamente, ma per dare l'idea che fossimo in movimento. Si usava fare le riunioni in casa di qualcuno. Damiani faceva dei giri spaventosi con l'automobile prima di parcheggiare, diceva ci vuole metodo compagni, metodo, che se uno ci segue così non ci trova più. Me ne rendo conto soltanto adesso. È stato un gioco, un gran bel gioco. Solo che loro non hanno mica scherzato. Per un po' sono stati a guardare, poi in 2 o 3 mattine hanno sbattuto tutti dentro. A centinaia ci hanno rinchiusi, tac tac, ci schiacciavano sul muro come zanzare. A loro piacevano le visite mattutine verso le 5, le 6, quando in inverno è ancora notte. Drin, drin, boom, boom, polizia, carabinieri. Ti sfasciavano l'uscio, entravano vestiti da robot, travolgevano ogni cosa, track, erano innamorati dei polsi, track, le manette d'argento prima di spiegare. Poi qualcuno gentile, per confermare le regole, ti chiedeva per favore di dargli la mano e per favore di farti scattare i ferri. È necessario che nessuno dimentichi. Bisogna dirle le cose. Io le ho nitide, marchiate nella mente le bruciature di sigaretta sul petto del mio amico. Parevano dei cerchi, come il vaiolo. Il tremolo delle sue dita mentre fumava nel quadrato dell'ora d'aria. Le nostre passeggiate a circonferenza, a passo svelto, nel carcere ottocentesco di Milano. Lo scroto di Dirella nelle celle di sicurezza della questura, lo stesso vaiolo, lo stesso segno sotto le palle. Pareva rincretinito Dirella, nella buia, giocherellava con una pallina di carta stagnola. Io lo guardavo, lui tirava l'involucro con uno scatto del pollice e dell'indice. Me lo ricordo, il tramestio delle sedie, la voce rotta, il sangue che scivola dalla faccia, il tic nervoso del mio amico, il suo occhio che si chiude, che si riapre. Mi facevo l'occhiolino 300 volte al giorno. Non si cancellano certe immagini, nemmeno con le amnistie. Si giocava come bambini, senza un limite, continuamente. Poi il padre si è alzato, si è tolto con un gesto solo la fibbia dai pantaloni e ha iniziato a picchiare. È andato avanti negli anni, così. Ha finalmente posteggiato il Damiani, eh? È salito, casa di ringhiera, un pezzo di moquette buttata lì nell'unica stanza divisa a metà da una tenda. Ci si riuniva così, da carbonari. Quando è arrivato Civinelli, mi ha sorriso, mi ha preso in disparte, era alto, robusto, aveva delle mani enormi. Non avrei mai desiderato litigarci. Mi ha parlato di te, Simona, ha detto. Era dispiaciuta della tua ritirata, ha continuato ridendo. Le piaci. È magrolina, ma ci sa fare. Come sarebbe ci sa fare? Ho domandato. Cioè, voleva me ed è venuta con te. E sai com'è, tu te ne eri andato, lei aveva voglia. Se la rideva, Civinelli. I denti allineati, le mascelle larghe. Mi dava le pacche affettuose sulla spalla. Ho ripensato al naso di Simona che si spostava verso il basso, alle smorfie del suo viso mentre faceva l'amore con Civinelli, alle sue gambe infilate sotto il tavolo del bar. Cenerentolo, mi è tornato in mente. Fai l'uomo, guida tu. Poi Damiani ha aperto la questione. Compagni, così iniziavano i discorsi. E compagni, Damiani si infervorava, piccoletto sulla sedia, le ginocchia ripiegate sotto il sedere, noi tutti intorno, io che sfogliavo un fumetto. Serachel, fiore di malva. Il mio amico che rideva, mi guardava, faceva le battute sul Damiani. Le passavamo così le serate, mai un cinema, mai una ragazza. Sempre lì a parlare di rivoluzione, a parlare male degli altri gruppi, dei nostri stessi compagni, a fare analisi politiche, sempre di corsa, che la rivoluzione ci poteva sfuggire dalle dita. Avanti, più svelti, che non avremmo fatto in tempo, con quelli che picchiavano con le chiavi inglesi nelle piazze. Il movimento lavoratori per il socialismo, avanguardia operaia, filo parlamentari, quegli altri che sbobinavano i caricatori, brigate rosse, prima linea, noi un po' di qua, un po' di là, ogni collettivo a modo suo, si entrava in un gruppo, si usciva subito dopo, si rientrava, si formava un sottogruppo e poi scissioni da destra, da sinistra, scissioni da un gruppo, un sottogruppo, si rimaneva anche in due, a volte da soli. Damiani parlava e il fumetto mi scorreva negli occhi. La polvere si alza, un nuvolone, il rumore metallico degli zoccoli, tac, tatatrac, picchiano sulla terra. Dalla nube pian piano si delineano le prime armature, sporche, inzaccherate di sangue e di fango. Gli elmi, i pennacchi, le lance, ancora in resta come se fossero pronte allo scontro. Ecco, ora si vedono meglio. Sono un intero plotone, il ponte levatoio si abbassa. Eccoli, entrano nel castello, le trombe suonano, danno il benvenuto. L'armatura di Seracle non è più bianca, ma schizzata di mota dappertutto. La nota subito la carrozza, Serachel. Scende in un attimo da cavallo, lo affida al paggio, si dirige nel salone reale. Serachel, grida la truppa, che si fa? Vi attendiamo o ripartiamo subito? A terra, risponde lui con un gesto imperioso della mano. Tu di qua, tu di là. I nitriti dei cavalli, le armature che scattano, l'accorrere degli scudieri. Tu così e così, muove le dita guantate di ferro, poi si volta verso il palazzo del re e la vede alla finestra, lei lo guarda. L'elmo in mano, il palmo della sinistra sull'elsa della spada. Si inceppa il cuore a Serachel. Il ritmo del battito si schianta, la baldanza, la schiena dritta, i modi autoritari, tutto che scivola via. Non riesce neanche più a spostare un piede. Serachel del re, annuncia l'araldo, lo esclama, nitido, nell'orecchio di lei. La carrozza con gli orpelli, le stalle che traboccano di cavalli, è tutto un lavorio di paggi. I cavalieri di Serachel brindano, bevono, si ristorano, lei se ne va. Si distacca dal vetro, si porta via le gambe del cavaliere che corrono sulle scale, veloci. Si impigliano nei gradini, picchiano contro gli speroni, fanno scintille tutto intorno. Chi è? Si domanda il cuore impazzito di Serakel. Chi è? La desidero, pensa Serakel. Ora, subito. Non regge più il suo cervello, si alza di scatto, dice al suo re: devo andare a combattere, il nemico è in gran numero, ero venuto per informarvi, mio signore, e per chiedervi rinforzo. Parla così, tutto in fretta, veloce, senza una pausa, con i bulbi incollati al merletto di lei. Lei, che non lo molla, lo guarda seria, gli occhi verdi puntati di nero, come il nastrino tra i suoi capelli. Si congeda il ser, si ficca l'elmo nelle scale, corre, schiamazza: uomini, a me! Le trombe suonano. Viene aperto il portone, il ponte levatoio abbassato, le note dei corni, il luccicore delle spade, delle corazze, i mantelli che sventolano. Uno spettacolo. Non vede l'ora di finirla, Serakel, di andare al galoppo fino alla sala del re, vederla e dire: ecco, ho liberato la contrada dai barbari, per voi, tutto quello che volete, per voi, chiedete e sarò vostro, qui, in ginocchio, la mano sul petto, vi rendo il vostro nastrino. È un po' sgualcito, ma sapete, la battaglia non ha riguardi il nemico. Ma che occhi che avete! E quei puntini neri nelle iridi? Da dove venite? È un segno del destino che siete qui. Fa tutto da solo, Serakele. Domande, inchini, discorsi. Ma è l'intero plotone a gridare. Hanno colpito Serakele, l'ho visto, è caduto. No, si riprende, si rialza. L'elmo bianco spruzzato di rosso. È impossibile che sia lui. Ecco, questo era un pezzo dell'apparato teorico dei giovani. No, lo dico per scherzo, però diciamo c'è nella... Allora, mentre Vicolo Calusca è un testo fortissimamente corale, prima guardavo sul telefono non perché smanettavo come un ragazzino, ma perché una volta mi ero... avevo contato i nomi che apparivano dentro, che sono, però non ho trovato il file, che sono almeno un'ottantina di personaggi che girano in Vicolo Calusca, che ne fanno un testo, come dire, molto particolare. Ecco, vabbè. Invece Serakel, ci sono alcuni personaggi emblematici, no? Che sono, come dire, nella storia hanno rappresentato, cioè diciamo che su questo è il fatto vero, però a noi fanno. Quindi, tornando alla questione più politica, diciamo così, di ciò che è attraversato o ciò che questi testi attraversano, parliamo di Civinelli. Diciamo due cose su Civinelli. Civinelli. Leggo io? Lo leggi tu? Ma Civinelli è un personaggio che prima, diciamo così, è tutto infervorato nella politica, quindi è anche un riferimento, è un personaggio, è uno un po' più grande degli altri, no? E quindi in qualche maniera è anche un personaggio che a cui gli altri si affidano e che lo guardano anche con una certa... così, benevolenza e voglia di emularlo, perché comunque lui è fisicamente bello, fisicamente forte, molto, come dire, diretto, sembra che sappia dove andare, cosa fare. Mentre per esempio il personaggio si contrappone un po' col personaggio Damiani, che invece è l'intellettuale che viene un po' preso in giro, perché comunque da una parte è un personaggio che più che altro parla, ma non fa quasi niente, fa poco. Parla, sa parlare, mette a disposizione la casa, insomma, mette a disposizione i fumetti mentre ci sono le riunioni. Però di fatto è meno, insomma, per i ragazzi è meno, insomma, interessante. Anche se poi dopo in seguito verrà riabilitato. Perché? Perché Civinelli alla fine tradisce, no? Civinelli è quello che facciamo qua, facciamo là, fa mille cose, però poi si pente, diventa, diciamo, lui incarna un po' quelli che sono stati poi pentiti, no? Che hanno venduto poi gli altri per poter uscire di galera. Quindi diventa per il gruppo, si trasforma in un personaggio negativo, anche con dispiacere, perché gli altri dicono: ma come, eri come noi, avevamo fatto le stesse cose, tu non stai tradendo, cioè tu stai tradendo gli amici alla fine, non stai tradendo l'ideale in sé, ma stai tradendo comunque gli amici, le persone con cui avevi condiviso un percorso. E allora qui c'è invece dopo in seguito una rivalutazione dell'intellettuale, cioè di Damiani, che finisce per suicidarsi. Però questo Damiani rappresenta un po' quelli che bene o male hanno tenuto botta, insomma, che hanno in qualche maniera così sono andati avanti e hanno mantenuto una dignità. Questo è in Serakel. In Vicolo Calusca invece riprendo a carte scoperte, non che siano le stesse persone, però riprendo a carte scoperte i personaggi e quindi invece dichiaro i nomi in questo attraversare il periodo storico dagli anni 50, quindi nei racconti di Moroni fino ai giorni nostri. Racconto di questi personaggi, per esempio la simpatia per uno come Oreste Scalzone, che comunque, pur essendo un intellettuale, è sempre stato vicino invece ai ragazzi, comunque alle persone anche più semplici o anche più ingenue. Diversamente da altri che invece sono stati, come dire, gli intellettuali di un certo livello, che però non avevano questa capacità di esprimere simpatia anche verso i più giovani. Io, per esempio, ho nutrito un grandissimo affetto verso Oreste Scalzone, che poi ho conosciuto come quando ho conosciuto Primo Moroni, ero un ragazzo, avevo 14-15 anni, tant'è che ho mantenuto questo rapporto di amicizia, anche di simpatia, che mi ha condotto anche poi a scrivere, adesso ce ne mettiamo un altro. Il sesto volume della piano piano crescono i volumi e ho scritto Gian Maria Volonté, che è una storia di amicizia profonda tra Oreste Scalzone e Gian Maria Volonté. Ho conosciuto entrambi e ho voluto raccontare questa storia di loro due, in particolare narrata attraverso, diciamo, le parole di Oreste Scalzone. E anche da questo libro viene fuori una grande umanità di Oreste, è un inno all'amicizia, praticamente quel libro è un inno all'amicizia attraverso il periodo storico li andiamo anche lì, dal 68 fino a, possiamo dire, i giorni nostri, però poi Volonté è morto molto prima. Una cosa che mi ha colpito è che questi due personaggi, per esempio Gian Maria Volonté e Moroni, muoiono tutte e due alla stessa età. Entrambi sono dei personaggi forti ed entrambi sono personaggi che si mettono in ascolto. Sembrerebbe strano, ma uno come Gian Maria Volonté, pur essendo un grande attore, conosciuto e tutto quanto, io ebbi l'occasione di frequentarlo e di passare con lui un po' di tempo, e fui colpito dalla sua capacità di mettersi in ascolto, cioè di essere anche umile, di avere questa così tenerezza e umiltà verso anche, appunto, ragazzi o persone che stavano magari facendo il suo stesso percorso da un punto di vista politico. Questo secondo me ha un grande valore, no? Che tiene insieme personaggi come Oreste Scalzone, come Gian Maria Volonté, come Primo Moroni, che ho avuto il piacere di conoscere e il piacere anche di ringraziare in qualche maniera attraverso i libri. Chissà se ho risposto. Sì, hai risposto. Questa volta hai risposto. Hai tirato fuori il sesto volume, ma hai risposto. Sì. No, no, non lo facciamo, però sarebbe interessante pure, ma non lo facciamo. Esatto, andiamo a sei giorni, entriamo nel girone più stretto, più difficile. Abbiamo avuto, sì, no, diciamo Civinelli è questo, Damiani è questo, i diversi personaggi sono poi... c'è l'eroina, c'è insomma è un po' più una coralità più ristretta ma molto caratterizzata dal punto di vista della ricostruzione storico-sociale e politica del tempo. Passiamo a sei giorni. Che va detto come una polifonia, sono tante voci insieme, no? Direi, come magari una stupidata, ma cosa sono? Sei giorni e sei persone. Però si può immaginarli che parlino, no? Quasi allo stesso momento, insomma, no? Fabio, era mattino presto, hanno bussato, mia madre si è alzata per andare ad aprire, ma mio padre era già in piedi perché si stava preparando per andare al lavoro. Si alza presto, fa il falegname, ha le mani grosse, le mani enormi. Ho sempre avuto paura di quelle mani, ma per fortuna non mi ha mai dato uno schiaffo. Sono sempre stato viziato come un vero figlio unico, alto, grosso come lui, come mia madre. Mia madre sì che me le ha sempre date. E per assurdo mio padre la fermava, cercava di placarla, di calmarla, ma mia madre quando parte, quando si arrabbia, non si ferma più. Ebbene, io dormivo profondamente, mi sarei svegliato più tardi per andare al liceo. «Chi è?» ha chiesto mio padre con un po' di tremore nella voce. Era troppo presto. «Quando uno ti chiama troppo presto, spesso sono disgrazie», diceva mio padre. «Come quando si riceve un telegramma, era... per avvertire che era morto qualcuno. Sento che mia madre mi scuote, mi dice che c'è la polizia». «La polizia?» chiedo assonnato. «Che cosa vuole da me la polizia?» dico. Mi alzo e vedo degli uomini senza divisa. Uno piuttosto elegante, gli altri modesti, sono gentili. Mia madre prepara loro il caffè, ancora in vestaglia, si siedono tutti, uno di loro mi tiene d'occhio mentre preparo gli indumenti da indossare. Pantalone di velluto, maglione, eschimo. «Deve venire con noi per semplici accertamenti», dice quello elegante che deve essere il capo. Mio padre interviene, dice che deve andare al lavoro, è un uomo di poche parole, parole essenziali da falegname. Ho sempre pensato così, da bambino, che i falegnami parlassero poco e per questo Geppetto si era costruito un burattino. Dice che deve uscire subito, ma non capisce perché per dei semplici accertamenti, come dicono loro, come hanno appena detto, sia necessario andare a casa della gente alle 4, alle 5, alle 6 del mattino. «Non era sufficiente mandare una comunicazione a mio figlio?» domanda. Mi accorgo che questa volta ne mette insieme un bel numero di parole, forse per via dello spavento di trovarsi a casa la polizia, seppur in borghese, dimessa, apparentemente tranquilla, senza mitra, spianati, pistole in pugno, come nei film polizieschi che piacciono tanto alla mia mamma. Loro si guardano, i poliziotti, annuiscono, l'elegante sussurra che prendono ordini, c'è un'indagine in corso, di stare tranquillo, un mucchio di altre frasi buttate lì, che invece di rassicurare sortiscono l'effetto contrario e mi agitano. Sono come una litania. E mio padre esce su questa litania e prima mi dà una pacca sulla spalla e mi guarda dai suoi occhiali, nei miei occhiali, e ci guardiamo nei riflessi delle lenti, poi va. Sento che scende le scale un po' esitante, sento il suo passo nel silenzio della mattina, un passo che non vorrebbe andare avanti, che vorrebbe tornare indietro. «Ma ormai sono vestito e pronto. Bevi un caffè», dice mia madre. «Mangia un biscotto», dice mia madre. In un attimo siamo in macchina. Ci sono altre auto giù. Alzo lo sguardo e scorgo mia madre sul terrazzo, ancora con la camicia da notte, anche se fuori fa freddo. È inverno. La vedo lì che mi fa un gesto con la mano mentre entro nella vettura. E a un tratto mi sento un po' soffocare. Mi sento soffocare. Mi viene su il caffè, mi torna su anche il biscotto. Le macchine non sono della polizia, sono auto normali. Gli altri sorridono. Sembra che andiamo a un ricevimento, invece ci dirigiamo in questura. E l'uomo elegante mi chiede a bruciapelo, ma con gentilezza, se sono io l'intellettuale del gruppo, il capo, l'ideologo. Mi domanda tutte queste cose che poi è la stessa e le ripete mentre l'autista conduce a tutta velocità la macchina, fa rombare il motore, come se dovessimo arrivare in tempo ad un appuntamento. Quale gruppo, chiedo? Il collettivo. Il gruppo che ha sparato, risponde, io non so niente. Dico, io sono uno del collettivo autonomo, antifascista, barona. Non sono uno che va a sparare. Furio. Furio sta anche sotto la doccia con la sigaretta. La protegge con la mano aperta a ombrello. Ci affumica ben bene nella piccola cella in cui siamo il doppio di quanti effettivamente ci si può stare. Letti a castello, brande qua e là in un unico bagno, con un piccolo lavandino e un buco per terra, il cesso alla turca, che ingoia escrementi, urina e sperma. Il cesso alla turca, il buco per terra, che ingoia l'entrata e l'uscita dei detenuti. Il cesso alla turca, il buco per terra, che succhia il tempo che stiamo là dentro. L'angolo in cui credi di essere al riparo, ma non sei al riparo. Non sei mai al riparo, sei in galera. Eppure siamo vissuti anche lì, mi dirà Fabio, quando saremo fuori, quando saremo a casa. Eppure anche quella è stata vita, mi dirà il mio amico tempo dopo, più avanti, quando quel posto sarà ormai diventato un ricordo sbiadito, anche se sbiadito non diventerà mai del tutto, non si potrà mai affievolire. Il cesso alla turca resterà il cesso alla turca, le brande, la sigaretta di Furio rimarrà la cenere che non le cade, e le nostre facce, le nostre espressioni e delusioni e rammarico e paure, furore e stupore anche, i nostri visi giovanili, nonostante sia trascorso tanto tempo e ora siamo vecchi, rimarranno, resteranno, confondendosi, sia pure con altre decine, centinaia, migliaia di ricordi. E ho preso ancora in mano il telegramma e lo tenevo aperto, ricordo. Lo stringevo tra il pollice e l'indice, lo tenevo con me come un dono prezioso. Tenevo quel foglietto in mano che mi diceva che era mio dovere stare fuori nella libertà. A volte le parole, il suono delle parole ti toccano il cuore e dentro di te è come se si aprisse uno spiraglio e uscisse tutto il dolore che invece chiude e serra e annoda, diventa una morsa di sofferenza e ti trattiene lì, ti stringe, non ti fa progredire. Invece quelle parole, quel telegramma, quel pezzo di carta mi aprirono un varco d'un tratto, sfondarono i muri, il cemento, le sbarre di ferro, i portoni della casa circondariale e sentii l'aria fredda che mi sferzava il viso e mi dava ossigeno e mi faceva respirare. Respiravo finalmente e di nuovo in modo profondo. Ecco. Così chiude questa quadrilogia, esalogia, come si può chiamare, la chiude ma non la chiude, perché diciamo a margine credo che sia necessario citare, quantomeno citare, alcuni altri persone che sono cascate in mezzo. Abbiamo detto che dal 78 c'era costituita questa squadra, che non era probabilmente la vostra, non lo so, se si è mai saputo, se c'è stata mai un'inchiesta, per questo te la chiedo così, per questi, per i sei giorni, questo non lo so. Vabbè, diciamo, questa è cronaca giudiziaria. E su Wikipedia noi se guardiamo, però la cosa che si può dire assurda è che all'indomani delle denunce che furono fatte per le torture e maltrattamenti, alla fine i giudici decretarono, un po' come con Pinelli, no? Il malorattivo, decretarono che le torture ci furono state effettivamente, cioè c'erano, però non si sapeva chi le avesse fatte. Quindi questa era la, come, non so, il malorattivo. Pinelli è morto, è volato dalla finestra, non si sa chi l'ha ammazzato. Allora, nello schema, quello che appunto volevo dire, che va citato, va ricordato, tra gli altri casi questo, che questo è un numero dell'83 della rivista Autonomia, quello che si vede in foto, poi se volete ve lo lascio qua da guardare, è Cesare Di Lenardo, che ha subito un trattamento del tutto analogo a quello che hanno subito loro. Cesare Di Lenardo è stato arrestato nel 1982, è stata riconosciuto questo, la tortura che ha subito col tempo, in questo caso si è anche capito chi era stato, si è ricostruito l'organigramma senza in realtà che nessuno poi ci andasse dire proprio di mezzo di quei responsabili, e Cesare Di Leonardo è ancora in galera oggi. Siamo nel 2025, arrestato nel 1982. Quindi diciamo, questo era, che dicevo all'inizio, che questa storia arriva all'oggi, in realtà nel suo portato grosso non è chiusa, è una faccenda che non è chiusa, e che questo credo che in qualche modo vada tenuto insomma in conto, ecco, al di là. Prego. Diciamo che oltre a non essere chiusa è continuamente portata avanti, perché in questi giorni il nuovo questore di Monza è quello che era stato condannato a 3 anni e 8 mesi per i maltrattamenti a Bolzaneto durante nel 2001 durante le manifestazioni di Genova del G8. Quindi la cosa che colpisce è che se tu vuoi fare il bidello devi certificare che non hai avuto delle condanne o che non hai avuto delle, questo qui è tuo, che non hai avuto, diciamo, a che fare con la giustizia. Questo signore è stato condannato perché ha coperto il fatto che gli agenti di polizia misero delle bottiglie Molotov per giustificare i maltrattamenti, le botte che loro dettero poi alle persone che erano lì a dormire, tra cui alcune persone andarono in coma, ci furono anche, non so, un giornalista inglese, insomma, ne venne fuori una condanna a livello internazionale. Ecco, a questo punto è diventato questore di Monza, quindi la cosa non è finita, anzi, va avanti, no? Come va avanti adesso la trasformazione da decreto legge a legge, che addirittura la cosa più terribile di questo decreto legge, che non, diciamo, che è un po' la punta del diamante, che non c'è stata neanche ai tempi di Cossiga, diciamo, c'erano ma erano tenute segrete, questa invece è stata votata pubblicamente, cioè il fatto che lo Stato possa costituire un'associazione militare e che questa associazione possa fare degli attentati. Questo è scritto nel decreto legge ed è stato votato, cioè in casi specifici, e loro decidono, all'interno del nostro Stato ci può essere si può costituire un gruppo non perseguibile che possa fare attentati, cioè che praticamente era la famosa Gladio, che però era tenuta nascosta ai tempi, cioè era negata, era nascosta. Poi è chiaro, c'erano gli uomini di Cossiga che andavano a sparare nelle manifestazioni, uccisero Giorgiana Masi e tanti altri, però questo era comunque nascosto. Invece oggi, in questi giorni, è stato proprio dichiarato. È vero che in questi giorni succede di tutto, perché sono mesi che qui si parla di guerra come se fossero delle more da prendere nel bosco, si parla di armamenti, si parla, non so, la Germania che si riarma, cioè delle cose che sembra quasi fantascienza, no? Oppure sembra di leggere, non so, un libro della prima guerra mondiale dell'avvento del fascismo. Però sono passati 100 anni dal ventennio e ci siamo dentro completamente. Quindi io direi che non è che facciamo una quadrilogia della memoria, noi facciamo una quadrilogia del presente, e che ha una continuità. Una cosa che ho sentito proprio oggi è che hanno vietato ad Abatangelo, che è uno che ha scritto un libro sulla sua vita, che faceva, che è tra l'altro un post-fattore di 6 giorni troppo lunghi, ha scritto un bellissimo libro, Correvo pensando ad Anna, ed è andato nella zona dell'Asinara a presentarlo. Ecco, lì praticamente hanno fatto delle pressioni e hanno fatto in modo che lui non presentasse quel libro. Ecco, siamo addirittura a questi livelli. Non solo questi libri danno fastidio, non ci si vuol fare i conti, perché fare i conti comunque con la memoria vuol dire fare i conti con le stragi che loro hanno fatto, e quindi vuol dire mettere, cioè vedere entrambe le cose, e allora è meglio non parlarne. Però addirittura qui vietare addirittura che uno faccia una presentazione di un libro è veramente il ventennio. Allora adesso te la faccio una domanda, nella, e poi diamo la parola a voi se stiamo andando troppo lunghi forse, ma in questo parallelo, allora io ti chiederei che cosa tu pensi dei ragazzi dei quartieri proletari di oggi, di Rami che scappava col motorino ammazzato dai poliziotti che lo inseguivano, di questi dei Maranza cosiddetti dalla nostra stampa di regime. Cosa pensi? Allora io penso questo, siccome sono figlio di un quartiere proletario, ma sottoproletario, perché la Barona negli anni 70 era veramente un quartiere di malavita, tra l'altro, e io penso questo, che io ho avuto la fortuna, o forse la sfortuna, però penso di aver avuto la fortuna di aver incontrato la politica, perché se non avessi incontrato la politica sarei stato come uno di questi ragazzi col motorino. Perché comunque se tu vivi in un quartiere proletario con quelle dinamiche lì, cioè come diceva Andreotti, che se tu vivi a Gaza, lo diceva Andreotti, non lo diceva un rivoluzionario, diventi un terrorista. Se tu vivi a Gaza e ti ammazzano tutti i giorni la famiglia e ti vietano qualsiasi cosa, a un certo punto tu reagisci. E così se tu vivi in un quartiere proletario, sottoproletario, hai difficoltà a tirare, la tua famiglia ha difficoltà a tirare a campare, non hai a disposizione nulla, perché in un quartiere come la Barona non c'era nulla, non c'era niente, c'era l'oratorio, fuori dall'oratorio non c'era più niente. È chiaro che poi o diventi un malavitoso, o ti metti a girare col motorino come stai dicendo tu. Con il fatto che comunque c'erano personaggi come Primo Moroni e comunque c'era un grande movimento politico negli anni 70, questi ragazzi hanno avuto questa possibilità. Hanno avuto la possibilità di avere una coscienza politica e di trasformare tutte quelle istanze di sofferenza e di privazione in qualcosa che riguardasse anche gli altri. Cioè non solo vedere, diciamo, la propria situazione come di difficoltà, ma vedere i più in generale, capire come mai succedevano queste cose. E piano piano, tramite un fumetto, tramite un libro di Tony Negri che non si riusciva a leggere magari più di 4-5 pagine, tramite magari una conoscenza come personaggi come Oreste Scalzone, piano piano si creava una coscienza di classe. E questa coscienza di classe dava la possibilità di uscire da un individualismo che magari poteva portare solo a delle scelte, come dire, di malavita, oppure anche delle scelte di eroina, di droga, o di spaccio, o di mille altre, insomma, situazioni negative. E quindi io credo che quello che forse manca a questi ragazzi delle periferie di oggi sia un contesto politico, però altrettanto vedo un grande cambiamento, per esempio, che c'è stato anche per i fatti che succedono quotidianamente in Palestina, una grande adesione anche da parte dei ragazzi, almeno frequentando le manifestazioni dei sabati che ho frequentato. Sono stato favorevolmente colpito, perché non ho visto i soliti vecchi come noi, almeno come me, ma ho visto finalmente anche tanti giovani, tanti ragazzi. Vero. Basta, tocca a voi. Se volete comprare i 10.000 libri. No, comprare i libri, se volete dire qualche cosa, siamo... Se volete venire qui al microfono. Volevo solamente aggiungere qua però, qua. Vieni qua. Qua, qua. Vieni qua. Te. Volevo solamente aggiungere, rispetto a quello che è il marciume che continua, che dopo la questione Battisti c'è stata un'altra situazione, sempre di vari rifugiati delle lotte sociali degli anni passati, che volevano la restituzione di 12 personaggi, di uomini e donne delle lotte sociali, lo Stato italiano sempre, no? Dalla Francia. E tanti di questi compagni e compagne, cioè, hanno una loro vita altra, no? E purtroppo hanno anche una loro età, no? E quindi lo Stato italiano persegue il fatto che dice che ancora questi continuano a delinquere. E purtroppo questi vecchi dello Stato italiano, a giovanissimi pubblici ministeri, uomini e donne soprattutto, e per poterli far carriera li mettono in queste E poi l'altra ultima che volevo dire è quella sempre della questione della macchina del marciume dello Stato italiano, è quella che tutti vi ricordate che ieri, no, nel 1900 e qua mi scappa, e c'è stato l'assassinio in maniera brutale e aggravata di Mara Kagol il 5 giugno, e ancora oggi quella macchina del marciume dello Stato italiano, agente che anche rispetto a quello che è stato il meccanismo dello Stato italiano rispetto a quegli anni della premialità e l'archivio su questo c'ha un bellissimo portale che si chiama Pentole Coperchi, per chi ne vuole sapere di più, anche a gente che ha preso di allora delle distanze, compagni di allora, che cioè, oggi vengono perseguiti, no, perché questi vogliono i trofei, ed è per questo che Di Leonardo è ancora in prigione, perché è un loro trofeo rispetto a quello, è lo Stato che comanda, e per questo oggi viene fuori quel cazzo di DDL di merda che citavi te prima, perché loro vogliono comandare, e qualsiasi tipo di scoreggia noi facciamo in maniera di aria pura, visto che mangiamo bene, no, è perseguibile. Sì, ringraziamo tutti quelli che sono venuti, venuti, e chi ha letto, chi ha scritto, chi ha prefatto, chi ci ha ospitato, chi ci ha dato i microfoni, e i libri sono là, e la birra è là, è apposta. Ciao, ciao, ciao.